piacere del dubbio. Gianluca Nicoletti. Dall'Istat arriva una conferma: il nostro è sempre più un paese popolato da anziani. Il rapporto sulla natalità e fecondità pubblicato oggi dall'Istituto di Statistica mostra come nel bel paese nascano sempre meno bambini. Solo nel 2016 in Italia sono nati 473.438 bambini, oltre 12.000 in meno rispetto al 2015. I numeri confermano dunque un trend e se considerassimo il periodo che va dal 2008 al 2016, le nascite da coppie con genitori entrambi italiani sono diminuite di 107.000 unità. I fattori alla base di questa tendenza sono fondamentalmente due. Le donne italiane in età riproduttiva sono sempre meno numerose e mostrano una propensione decrescente ad avere figli. Sul tema però ha giocato un ruolo centrale anche la crisi economica. A risentirne di più sono stati soprattutto i primi figli, calati nel periodo 2008-2016 del 20%, mentre i secondi hanno registrato un meno 16%. Dai dati emerge poi in maniera forte il legame tra nuzialità e natalità. Solo nel 2016 il 70% delle nascite è avvenuta all'interno del matrimonio. Il fatto dunque che si registri un rallentamento nel calo dei matrimoni fa ben sperare per un recupero nel prossimo futuro. Dal gennaio al giugno di quest'anno... Cioè, voi mi dovete spiegare... Perché dovremmo sperare in un recupero? Oggi tutte le prime pagine dei giornali, pianti, strapparsi le vesti, strapparsi i capelli. In Italia non si fanno più figli. Meno 100.000 bebè in un anno. Il canusu, il bonus bebè. A me qual è il problema? Si fanno meno figli. Ma mi sembra logico, la gente non si sposa più, la gente non ha più voglia di perdere tempo con i bambini, le donne finalmente sono liberate da questo gioco di essere contenitori di bambini, fanno anche altre cose. Non è per questo si spopolerà il paese, ma magari sarà più spazio, che ne so, gli altri li faranno i bambini e verranno i bambini degli altri. Ci poniamo questo problema? No, non ce lo poniamo. Noi invece ci poniamo un altro problema. Come sono i bambini che rimangono? Occupiamoci dei residui bambini, di quei poveri residuali, preziosissimi, indispensabili bambini che in realtà ormai valgono come gioielli. Ce ne sono sempre meno, i pochi che ci sono aumenteranno di valore e quindi dobbiamo valutarli. Noi questa mattina vorremmo, con l'aiuto del pubblico, fare una valutazione del figliolame italiano, quello lì al 100%, con genitori tutti e due italiani, magari anche sposati, così sono più sicuri che sono italiani. Come sono? Beh, la valutazione è senz'altro ardua, abbiamo dato una scala per valutarli e la scala mi sembra inequivocabile, è il principio della bimbo minchiaggine. Noi vorremmo valutare la bimbo minchiaggine, cioè il grado di bimbo minchiaggine dei bimbi residui italiani, quelli che escono fuori da questa statistica, non quelli che non sono nati, quelli che sono nati, che sono quelli che veramente ci preoccupano. A tra poco, 800 24 00 24, ascoltate attentamente i termini del sondaggio perché nelle vostre mani è un dato statistico importante, capire esattamente il tasso di bimbo minchiaggine del residuo figliolame italiano. E cosa nota che in Italia si fanno sempre meno figli? Ancora una volta l'Istat nell'ultimo report ci conferma che l'anno scorso sono nati 12.000 bambini in meno. Ma quei pochi che restano, come sono? Perché quando andiamo in casa di amici con figli piccoli quasi sempre inorridiamo? Perché così spesso vediamo genitori in ostaggio di bambini viziati, capricciosi e insopportabili? I figli degli altri sono sempre peggiori dei nostri? Quanto avete viziato i vostri? Chiamate all'800 24 00 24 e aiutateci a valutare la bimbo minchiaggine della gioventù italiana. In base alla vostra esperienza, in quale tipologia di figliame italiano residuo vi imbattete più spesso? Grado 0, gli spartani. Zitti, muti e obbedienti. Rispondono ai comandi come cani addestrati. Grado 1, gli sdraiati. Passano ore davanti agli smartphone. Entrano in modalità fastidiosa solo in assenza di connessione. Grado 2, i frantumatori. Richieste a oltranza con ricatti per stare buoni. Sono capaci di bloccare un'intera fila al supermercato finché non gli comprate la cioccolata. Grado 3, i posseduti. Al ristorante urlano e mangiano con le mani, si impossessano del vostro smartphone, lanciano le polpette, si puliscono le mani sul vostro cappotto e, ululando, si fanno i selfie a cavallo del cane del vicino. Mi sembra un questionario lineare, semplice, non c'è molta difficoltà. Noi dobbiamo analizzare ciò che resta. È inutile farsi illusioni, fare sogni di gloria su quello che non c'è più o non ci sarà mai, che sono quei 100.000 che non sono nati. Beh, vediamo quelli che sono nati, osserviamoli, anche perché quelli che oggi sono bambini domani saranno adulti. E se noi saremo ancora vivi, non si sa, ma magari sì, dovremo averci a che fare con degli adulti che ancora hanno in loro un tasso altissimo di bimbo minchiaggine. La bimbo minchiaggine è una categoria dell'esistere che naturalmente non ha età. Uno potrebbe essere bimbo minchia anche a 50 anni, perché quella sorta, quel coacervo di caratteristiche nefaste per le persone che ti stanno attorno, che si propagano nella popolazione anche adulta e difficilmente vengono abbandonate se fanno proprio parte del proprio corredo genetico. Quindi noi dovremo classificare queste semplici quattro categorie. Abbiamo dato anche un grado zero per essere diciamo proprio sicuri che alla fine diamo un dato certo, scientificamente attendibile. Il grado zero praticamente è estinto, non si vede, forse, non lo so, in qualche maso chiuso, in qualche comunità molto ristretta. Sono gli spartani, zitti, muti, obbedienti. Dici vieni qua e vengono, seduto e stanno seduti, vai a dormire e vanno a dormire, pipì, cacca e fanno tutto. No, questi non ci sono più. E poi ci sono gli altri, gli sdraiati furono identificati dal sommo pensatore Michele Serra osservando i suoi figli, hanno anche dato ispirazione a un fantastico film. Sono quelli che stanno tutto il giorno sdraiati, alla fine sono i migliori, danno fastidio soltanto quando termina la connessione. Quando non hanno connessione o gli finisce la ricarica dei giga del telefonino o il wifi ha qualche problema a casa, cominciano a dare dei problemi. I frantumatori sono quelli che non è che proprio rompono le palle con un martello, fate conto, no, usano il cesello, hanno una piccola lesina, una lametta, taglietto dopo taglietto, taglietto dopo taglietto, vi trovate con le palle frantumate, manco sapete come è accaduto. Il posseduto ha una forza aliena in sé, qualcosa che lo prende, ci vorrebbe un esorcista. Sono quelli che urlano, strillano, i cui genitori sono schiavi, sono ormai dei succubi totali. Ecco, questi sono i peggiori. Sono quelli che magari faranno parte dello zoccolo dominante della futura società, però dobbiamo classificarli. In spirito totalmente laico, non facciamo giudizi di merito, è bene, male, una volta i bambini, non ci sono più valori, non ci importa nulla. Dobbiamo soltanto fare un compito di classificazione. Bruno, buongiorno. Pronto, buongiorno. Hai esperienza di queste categorie? Dunque, io penso che la quarta categoria sia predominante. Il posseduto, che è il numero 3 poi, perché abbiamo messo un numero 0, diciamo. È il posseduto. Il numero 3. Io do una spiegazione antropologica a questo fenomeno, sì. Perché mentre prima i bambini nascevano, come dire, per atti di incoscienza, no? Io ho tre figli e non ho fatto calcoli, diciamo, è venuta così. Un momento di passione arrapante è nato il figlio, così. Sono i frutti della passione, diciamo. Cioè uno non ci pensava, adesso facciamo un figlio, perché adesso fanno così, no, cominciano. Non c'è stata tutta questa programmazione. Si programma, comincia, facciamo un figlio, bene. Invece il bambino è il coronamento di un sogno, un po' come la ciliegina sulla torta della nostra, come dire, vita di coppia. E allora... È una start-up, così si dice oggi, facciamo una start-up, sì, facciamo un figlio. Sì, allora sti figli praticamente diventano, da una parte... come dire, il ricettacolo di tutti i nostri desideri, per cui li sovraccarichiamo di sogni nostri, non il loro chiaramente, e dall'altra parte sono anche, come dire, coccolatissimi, per cui i poveracci secondo me vengono fuori nevrotici e niente. Mi faccio un esempio di figliolame residuo posseduto, così diamo anche esempi concreti. Talvolta a casa mia vengono degli amici con dei bambini piccoli posseduti, con dei figli posseduti, sì. Sì, allora io mi diverto così a osservarli. Allora io quando, cioè, avvicino un crocifisso e cominciano a uscire bava verde. Io quando ero piccolo e mia mamma mi portava con sé a casa di qualche parente conoscente, se cominciavo a fare il discolo, che è normale per un bambino, lei non mi diceva nulla, mi guardava. E però quello sguardo significava poi ti faccio fuori. Quindi lei era uno spartano da piccolo, della categoria zero, era uno spartano. No, lei. No, io ero abbastanza discolo, però capivo che se non facevo il bravo mia mamma mi azzoppava, insomma. Quindi lei era un frantumatore costretto ad essere spartano per una educazione molto rigida. Perfetto. Adesso invece vedo qualche genitore che continua a dire al figlio: ma dai, non si fa così, vedi, questa cosa non si fa. Il bambino ancora più posseduto continua, cioè in pratica non abbiamo serietà nel dare le regole. La bimbo minchiaggine ereditaria ormai è scientificamente approvato, figlio bimbo minchia, genitore bimbo minchia, bisognerebbe risalire, fare uno studio a posteriori, però oggi non abbiamo gli strumenti tecnici per capire da dove è stato originato il bimbo minchia. Il bimbo minchia numero zero qual è stato? Che magari, ne so, il padre e la madre si facevano le canne lungo una manifestazione, non lo so, per il Vietnam, e magari quel concepimento nasce il numero zero del bimbo minchiaggine, non si sa. Oppure, non so, il padre e la madre facevano una manifestazione per salvare, che ne so, i poveri gattini abbandonati, è nato il bimbo minchiaggine, non si sa. Ancora questo è oscuro per la scienza. Sappiamo che oggi comunque i pochi appartenenti al figliolame residuo italiano hanno un forte tasso di bimbo minchiaggine, e noi lo stabiliamo. Iase, buongiorno. Buongiorno. Ci aiuti. Senta, io sono un siriano che ho da 27 anni in Italia, che ho fatto le 3 figli a Bologna, che sono... Scusi, ho capito male. Dove viene lei di origine? Siriano, di Aleppo. Ah, di Aleppo, perfetto, sì. Quindi lei ha un figliolame residuo nato in Italia? Sì, nato nei 3 figli o nati in Italia, tutti e 3. Però concepiti da uno straniero, quindi non sono italiani. Però mi faccia capire allora, che differenza vede? Come li classificherebbe i suoi figli in queste categorie? Sempre dalla casa, dal decassione della casa, praticamente dal padre e dal madre della casa. Il bimbo quando nasce in casa di un padre e madre proprio giocavano bene, e c'è bella differenza. Quindi quando... i suoi sono spartani, sono zitti, muti, obbedienti, rispondono ai comandi come cani addestrati. Questo è il... Non come un cane, come un genitore che insegnano il valore della vita, insegnano il valore della casa a quelli che vivono dentro, insegnano, non dicono mai delle parolacce, ma veramente zero parolaccia in casa. Ma non quali sistemi usa? No, perché è molto importante quello che dice Iase. Vede, lei ha i suoi bambini a tutti gli effetti italiani, perché avranno cittadinanza italiana, immagino, però sono stati, diciamo, educati in maniera diversa, quindi appartengono alla categoria più rara in questo momento, quindi il tasso di bimbo minchiaggine è praticamente assente, sono dei bravi bambini. Sì, infatti, perché quando ci arrivi un bimbo praticamente dai loro amici cominciano a sentire veramente le parolacce, la mamma sua le dici, comincia a ridere con sotto denti, dici sembra che è un bravo che dici la parolaccia, ecco. E ti rimani meravigliato perché dici: perché li fai vedere che sei stato bravo quando gli dici le micchiata? Ma questo è importante, scusi Iase, è molto importante. Lei vede quando fanno una festicciola i suoi bambini, invitano altri bambini, appartenere bambini ad altre categorie, tipo frantumatori o anche posseduti addirittura, che i genitori assecondano questo loro modo d'essere. Sì, la fine veramente che si sentono i genitori, quelli che gli dicono, perché un bimbo non sorbe tutti di quelle cose le dici fra il madre e il padre praticamente. Io mai permetto, le dici a mia moglie una parolaccia, neanche a mio figlio non permette mai, le dici una parolaccia alla mamma, perché ti arriva il ciappone come una volta. Il ciappone cosa sarebbe? Uno schiaffo o una sculacciata? Per avere l'aspetto. Quasi tutti e due, se valore di a doppia mano, sinistra di culo e destra di faccia. Perfetto, abbiamo capito. Grazie Iase. Stefano. Pronto? Sì. Sì, io sono d'accordo con l'ascoltatore precedente, nel senso che penso che... La tecnica del ciaffone è quella per trasformare i bambini in spartani, anche gli sdraiati frantumatori posseduti. Sì, non serve per forza il ciaffone, basta anche semplicemente l'atto intimidatorio, voglio dire, basta anche solo la minaccia, diciamo. Cioè ti spezzo le gambine, cosa del genere? Sì, esatto. Lei quale usa di atto intimidatorio? Il bastone nodoso funziona. Ma lo tiene appeso al muro oppure lo allucina soltanto? No, è un'immagine figurativa. Dice: io prendo l'asso di bastone. Ma non è una questione, io ho un rapporto estremamente ottimo con i miei figli. Quindi lei ha dei figli spartani, mi conferma? Educati, li chiamerei. No, sa perché è interessante, Stefano? Perché finora nel sondaggio sto notando un'incidenza di la categoria zero, noi consideriamo quasi inesistente. Quindi ci sono dei bravi bambini in Italia. Che non si vedono. In effetti la mia esperienza sono pochi. Io ho appunto 2 figli di 8 e 4 anni, un maschio e una femmina. Quello di 8 anni alle elementari a una classe di tutte le altre varietà. Vediamo di definirlo. Hanno degli sdraiati frantumatori o posseduti, in incidenza maggiore, diciamo, fra i loro amichetti? Non lo so, in questo momento, per motivazioni anche del periodo, come sono quelli che giocano con lo smartphone, eccetera, quelli sono gli sdraiati. Trova degli sdraiati, qualche posseduto, che di solito sono i bulli, sì, poi a scuola. Al posseduto, certo che il posseduto è bullo totale. Esatto. Però i bully non sono tantissimi, sono pochi in genere. La maggior parte sono sdraiati oppure qual è l'altra frantumatori, categoria? Frantumatori. O sdraiati o frantumatori. Diciamo che poi gli sdraiati, quando non hanno lo smartphone, diventano frantumatori. Si passa di categoria. Li addomestichi con lo sdraio, cioè sdraiandoli, con dandogli lo smartphone, come si direbbe. Cioè il frantumatore è quello che ha sempre richieste continue, vuol sempre qualcosa, è come uno squalo affamato, finché gli butti in bocca le polpette sta buono e tranquillo, e poi quando ce ne sono più comincia a frantumare. Per l'amor del cielo, anche i miei figli vogliono sempre qualcosa. E lei anche come riesce a regolare con l'asso di bastoni? Io, anche grazie all'enorme collaborazione della mia compagna, noi gli abbiamo insegnato il valore delle cose, e che quindi che delle cose possono non essere utili, necessarie, o non è possibile averle in questo momento perché anche non ci sono soldi. Io sono stato anche molto diretto con i miei figli, farglielo capire, anche se sono piccoli. Certo. Lo capiscono, poi a un certo punto magari la prima volta sono tristi, una volta ti fanno il capriccio. Però poi capiscono, Stefano, una cosa molto giusta. I bambini oggi, normalmente, la mia immagine, immagino che i soldi i genitori li trovano come l'albero degli zecchini di Pinocchio, del gatto e la volpe, che uno mette la tessera del bancomat dentro la fessura della banca, escono i soldi. Non pensa che dietro quella fuoriuscita c'è il lavoro dei genitori. Quindi... Ma si tratta di esempio, di educazione. Mio figlio, non è che l'ho fatto lavorare, per l'amor del cielo, però delle volte me lo sono portato. Quanti anni ha? 8. Otto anni qualcosa potrebbe fare. A 3 anni passava giornate in negozio con me e la mia compagna. E cosa faceva nel negozio? Spostava il magazzino? Lui giocava con i suoi giocattoli. Nel negozio cosa vendeva? Quando mi vedeva, che categoria? Mi aiutava magari a spostare le sedie. Ma magari il tazzino e il caffè poteva lavarle. Sì, però non... lui... Ha le manine piccole, giocare, anche bene. Lavorare. Quindi io lo facevo giocare, però ha capito dal mio esempio, dall'esempio della faticate, mia compagna, faticate, il valore del faticate. Lavoro e dei soldi. Perfetto, mi sembra chiaro. Riassunto velocissimo, emerge la categoria che sembrava sommersa degli sdraiati, spartani. Si ottengono figli spartani con un grosso impegno di famiglia. Posseduti, frantumatori e sdraiati in realtà sono molto presenti negli amichetti di quelli che stanno descrivendo la loro situazione idilliaca. Vorrei testimonianze però coraggiose e impavide e spudorate di genitori di veri bimbo minchia. 800 24 00 24, a tra un istante. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog. È cosa nota che in Italia si fanno sempre meno figli. Ancora una volta l'Istat, nell'ultimo report, ci conferma che l'anno scorso sono nati 12.000 bambini in meno. Ma quei pochi che restano, come sono? Perché quando andiamo in casa di amici con figli piccoli quasi sempre inorridiamo? Perché così spesso vediamo genitori in ostaggio di bambini viziati, capricciosi e insopportabili? I figli degli altri sono sempre peggiori dei nostri? Quanto avete viziato i vostri? Chiamate all'800 24 00 24 e aiutateci a valutare la bimbo minchiaggine della gioventù italiana. In base alla vostra esperienza, in quale tipologia di figliame italiano residuo vi imbattete più spesso? Grado 0, gli spartani. Zitti, muti e obbedienti. Rispondono ai comandi come cani addestrati. Grado 1, gli sdraiati. Passano ore davanti agli smartphone. Entrano in modalità fastidiosa solo in assenza di connessione. Grado 2, i frantumatori. Richieste a oltranza con ricatti per stare buoni. Sono capaci di bloccare un'intera fila al supermercato finché non gli comprate la cioccolata. Grado 3, i posseduti. Al ristorante urlano e mangiano con le mani, si impossessano del vostro smartphone, lanciano le polpette, si puliscono le mani sul vostro cappotto e, ululando, si fanno i selfie a cavallo del cane del vicino. .000240024, misuriamo il tasso di bimbo minchiaggine del figliolame residuo italiano. Abbiamo la categoria spartani, degli sdraiati, dei frantumatori e dei posseduti. Daniele, buongiorno. Buongiorno. Volevo dire una cosa semplice, nel senso che la classificazione dipende molto non tanto dai bambini, ma dagli stessi genitori e dalla... e dal trascorso che hanno avuto. Io sono un bimbo minchia, nel senso che ho avuto i genitori che mi hanno sempre aiutato, chiaramente. Quindi lei, diciamo, conferma il dato scientifico che la bimbo minchiaggine cresce più o meno nella seconda metà degli anni 60 e non si sa bene adesso la causa, sono state le scimmie verdi. È non semplice, che tutti lavoravano e quando lavoravano tu rimani a casa solo. Spesso con i nonni, se capitava. Io ho avuto la fortuna di avere con i nonni. E i nonni viziavano. Di essere ancora più viziato, non mi mancavano i soldi, non ho mai navigato. Lei cos'era però? Lei in gioventù cos'era? Un frantumatore, un posseduto? No, io ero un secondo, anche lì importante è anche chi nasce prima e chi nasce dopo, perché c'è il primo che di solito una volta era il frantumatore, quello che spaccava tutto, il secondo godeva di quelli. I primi una volta erano i spacca. Si chiamava l'apripista, la sottocategoria era l'apripista. Che sarebbe la categoria adesso dei posseduti, perché erano posseduti, ma veramente posseduti, erano anche pericolosi ai tempi. E cosa sono diventati poi, diciamo, crescendo, che oggi, diciamo, la categoria che lei indica avranno oggi sui 45-50 anni? Quelli che sono sopravvissuti, perché molti ci hanno lasciato la pelle. Adesso sono diventati quelli che possono, hanno i figli zero, cioè se li hanno e hanno deciso di avere, hanno i figli spartani. Ah sì, perché, hanno perché capito. Ne hanno passate talmente di tutte che sono in grado di farlo. Nel mio caso... Cioè conoscono quei sistemi tipo spezzare i pollici, strappare le orecchie per farli stare buoni. Hanno imparato dalla vita a farsi con le mani, nelle risse, nelle discoteche, nelle grosse compagnie. Quindi gli spaccano un dente al bambino, una testata in faccia e sta buono. No, ma non lo usano fisicamente, no, non siamo a quei livelli. Io credo che sia più in maniera... Sono autorevoli, sono autorevoli. Mio fratello era uno di questi, è riuscito a trovarsi, si è fatto il mazzo, è riuscito a trovarsi un po' le cose, nonostante tutto, nonostante gli venivano imposti si è salvato. Cosa doveva fare a scuola, cosa doveva fare tutto. La ribellione c'è stata, però alla fine se l'è cavata e ha figli spartani. No, non li ha fatti, ha deciso di non farli. Ah beh, lui fa parte dei 100.000 che non ci sono, ecco. Esatto, ha deciso di non farli, però quando tratta con i miei figli... Diciamo, alla categoria dei non pervenuti, a questo tipo di tipologia di umanità gli si dice: che figlio hai? Non pervenuto, è i 100.000 che non sono nati. È chiaro, questo è molto interessante. Fabio? Sì, Fabio, ciao. Buongiorno. Sua testimonianza, allora. Io ho la mia testimonianza, ho due femmine, una di 6 e una di 4 anni e un maschietto di 4 mesi. Che categorie sono? Ma le femmine sono, diciamo, una via di mezzo. Frantumatrici. Sono delle ibride, diciamo. Frantumatrici. La più grande tra frantumatore e posseduta. Sdraiato. Ah, è sdraiata. Ah, strano, una ragazza sdraiata, è raro. E cos'ha? Telefonino in mano, sempre lì a... No, è la televisione. Ah, la televisione. A lei piacciono i film. Ah, per i film. I cartoni animati, diciamo. È una sdraiata su Peppa Pig, cose del genere. Esatto, cose del genere. Che è una droga fortissima, Peppa Pig. Poi un giorno parleremo della Peppa Piggaggine, che è una droga fantastica, ma allo stesso tempo trasforma uno sdraiato in uno spartano, può trasformarlo. Cioè i bambini fanno come Peppa Pig e a quel punto stanno buoni. Mentre la seconda invece è la via di mezzo tra frantumatore e la categoria sotto, che adesso mi sfugge il nome. Sotto il frantumatore è sempre sdraiato. No, l'altra. Spartano. Posseduta. Ah, posseduta, sopra, il peggiore. Esatto. È una quasi posseduta. Mi dia un esempio, un sintomo di possessione di sua figlia, per capire. Come si comporta il posseduto? No, ogni tanto capita a tavola magari il picco. Utilizzi non proprio le forchette. Mangia con le mangiare, mani. Mangia con le mani. Sì, mangia con però, le mani. Però diciamo una bambina che ha 3 anni e mezzo, 3 anni. Però ancora deve crescere, diciamo, però esatto. Già si vede, diciamo, il buongiorno si vede dal mattino. Esatto. Potrebbe essere una buona posseduta. Va bene, grazie, molto interessante. Luca. Sì, pronto, ciao Nicoletti. Sì. Niente, la mia testimonianza è la seguente. Allora, io ero sicuramente uno spartano. Mia moglie, idem, una spartana. Nostra figlia, che ha 10 anni, sì, appartiene sicuramente alla categoria degli spartani quando sì, siamo fuori al ristorante sì, o a casa di amici, eccetera, si sa comportare benissimo. Quando invece siamo a casa sì, diventa una numero 3, ovvero una posseduta. No, la trituratrice, quella che ti sta addosso continuamente, e io e mia moglie siamo praticamente i suoi giocattoli, dobbiamo sottostare a tutte le cose che gli vengono in mente e niente, per cui volevo è molto semplice, il suo è un caso da manuale, è la fase, esatto, è in transizione sua figlia, diciamo, c'è una sorta di indecisione di categoria fra lo spartano, che sarebbe la definizione che le compete per educazione familiare, anche per diciamo patrimonio genetico, voi siete due spartani, avete generato una spartana, però in sé probabilmente ha qualche gene difforme balzano che la potrebbe essere frantumatrice o addirittura posseduta, e lei adesso è combattuta fra queste due nature e deve fare una scelta, a un certo punto farà una scelta e deciderà quello che sarà. Vi auguro che possa scegliere per l'essere spartana, avrete una figlia educata, docile, tutto, ma se scegliesse mai di essere posseduta o anche frantumatrice sarebbe terribile, perché quando si entra in una categoria per transizione, non per definizione genetica sin dalla nascita, è molto difficile, molto più forte, molto più veemente la caratteristica. Devo chiudere? Allora, ci fermiamo un istante, tra poco. Melog. Chiamate all'800 24 0024 e aiutateci a valutare la bimbo minchiaggine della gioventù italiana. In base alla vostra esperienza, in quale tipologia di figliame italiano residuo vi imbattete più spesso? Grado 0, gli spartani. Zitti, muti e obbedienti. Rispondono ai comandi come cani addestrati. Grado 1, gli sdraiati. Passano ore davanti agli smartphone, entrano in modalità fastidiosa solo in assenza di connessione. Grado 2, i frantumatori. Richieste a oltranza con ricatti per stare buoni. Sono capaci di bloccare un'intera fila al supermercato finché non gli comprate la cioccolata. Grado 3, i posseduti. Al ristorante urlano e mangiano con le mani, si impossessano del vostro smartphone, lanciano le polpette, si puliscono le mani sul vostro cappotto e ululando si fanno i selfie a cavallo del cane del vicino. 800 24 0024, leggo qualche sms così cerco un po' di capire meglio quello che è il polso del pubblico, perché nella valutazione finale valgono anche gli sms. Questo non l'ho capito, lo leggo tale quale, magari qualcuno può spiegarmelo, si ascolta e mi dà degli elementi che non ho. Scusa Nicoletti, perché dobbiamo esimerci dal giudicare le situazioni che tratti, trattare il senso critico delle persone come il solito suscito da vecchi tromboni moralistici ti rende anacronistico, ma in questo tuo cinico e snobistico farci specchio dei fatti della vita mi pare si annidi un tuo orgoglio arcaico di superiorità gestionale e potere. Ovviamente tu fai il lucetto travestendoti da austera, pacifica, modesta gandinità. Non ho capito che vuol dire. Questo invece lo capisco. I bambini di oggi vanno tutti verso la ricchionaggine. Dovresti essere contento, Nicoletti, diventeranno tutti come te. Questo è chiaro. Francesco, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, che figlia? Io sono un papà di 44 anni, vivo a Reggio Emilia, ho 3 bimbi. Sì. 11, 9 e 5 anni, di cui una bimba di 9 anni. A quale categoria appartengono? Spartani. Ah, perfetto, gli spartani. Spartani perché sin dalla tenera età abbiamo dato loro delle regole ben precise da seguire. Quindi basta ancora oggi poco, anche un semplice sguardo che ci intendiamo subito. Il rispetto delle regole è fondamentale. Poi ecco, ma come si fa? Perché guardi, il segreto della spartanaggine dei figli è stato in qualche maniera eviscerato da precedenti ascoltatori. Uno che usa il doppio scapaccione con doppia mani, però erano No. Un altro lasso di bastoni, dice c'è il bastone, attento. No, con lo sguardo. No, con lo sguardo, anche perché ci vuole sia il bastone ma anche la carota. La bastonata. Quindi significa che se tu vai bene, tu ti comporti bene, io ti premio. Se tu non ti comporti bene, non vai a basket, la ricompensa, non vai... c'è la ricompensa, okay. Perfetto. Anche perché poi c'è anche un altro aspetto. Io ogni anno, quando vado fuori in ferie, in Puglia, in altre zone, ricevo continuamente dei complimenti da parte anche degli avventori dei ristoranti. Quindi diventano dei perfetti professionisti o diventano dei serial killer i suoi figli. Io spero la prima. Diventeranno. Guardi, scientificamente i nostri sondaggisti la chiamano la tecnica dell'allevamento del coniglio: bastone e carota, bastonatina, carotina, bastonatina, carotina, e il risultato c'è, indubbiamente c'è. Giuseppe. Buongiorno. Sì. Volevo aggiungere le tre categorie che avete proposto, una quarta, quella dei furbetti della casa. Furbetti. Che sarebbero quelli che, a seconda della situazione, sanno schierarsi o dalla parte del padre o della madre che ha torto, o degli altri genitori che sono Sfruttano, sfruttano la terminologia psicanalista, lo chiama il doppio legame o doppio vincolo, sfruttano la conflittualità tra i genitori, che danno dei comandi contrastanti. La mamma dice sì, può uscire, papà no, non esci. Usano questa conflittualità a loro valore. Ma si chiama la proto-iperparaculaggine. Il termine tecnico è questo: si chiama proto-iperparaculaggine. Sono già dotati di questa caratteristica, che è molto rara nell'infanzia. Sono dei proto-iperparaculi e giocano nel conflitto fra genitori. Chi ci abbiamo? Jacopo, buongiorno. Sì, buongiorno, chiamo da Padova, intanto complimenti per la trasmissione. Le piace questa nuova versione di Melog, con uno staff scientifico alle spalle che a tempo reale riesce a lavorare i dati che ci vengono dal pubblico, trasformando tutti voi in un grande, importantissimo campione socio-antropologico? Devo dire che fate esattamente uno splendido lavoro. Jacopo, come ho detto al centralista... Non è che lo dico per far... Ci sono 15 persone che lavorano a tempo reale. No. Si vede. Io ho un pubblico esercizio, una gelateria, quindi lo capisce, credo di questo. Avere una certa esperienza in relazione con i bambini. Devo dire che do ragione perfettamente a molti ascoltatori che sono intervenuti precedentemente, perché nella mia esperienza posso vedere un 2-3% di bambini di tutte le età. Ecco, diamo le statistiche, perché guardi, il punto di vista del gelataio è importantissimo. Allora, cominciamo con la categoria più... di spartani, quanti ne vede in gelateria? Molto, molto pochi. Pochi, sono pochi spartani. Come ha precedentemente detto l'ascoltatore che mi ha preceduto, sono quelli che anche ricevono i nostri complimenti, quindi... Buoni, prendono il gelatino con i... Ma sì, ma anche... Solo crema e cioccolato, lo spartano, la base. No, quello, ma veramente educazione, sapersi comportare in pubblico, e questo si vede comunque anche dall'impronta dei genitori. Allora, gli sdraiati, quelli che vengono già col telefonino in mano, che manco alzano gli occhi. Quelli più che bambini sono i ragazzi da 13 a 17 anni. Nemmeno guardano, chiedono fragola, cioccolato, kiwi e basta. No, più che altro davanti magari alla coda in estate, ti arrivano là davanti e tu pensi che abbiano già le idee chiare e ti dicono un attimo, devo scegliere. Ti fanno perdere tempo alla gente dietro. Esatto. E vogliono anche assaggiare magari, me lo fai assaggiare quello? Sì, insomma, purtroppo terribili. È parte del lavoro. Questi però già sono frantumatori, secondo me. No, è proprio telefonino dipendenti, poi ogni tanto si accorgono che... E frantumatori e posseduti, quanti ne vede? Frantumatori e posseduti. Quelli sono la categoria più presente, guardi, io potrei raccontarle... Mi dica, un posseduto in gelateria cosa fa? Entra, innanzitutto non saluta, io purtroppo sono stato, per fortuna siamo stati educati con un retaggio... Fa finta di niente lei, certo, chiaro. Quindi buongiorno, permesso, salve, perlomeno la minima educazione. Quindi non saluta, si siede, addirittura peggio ancora, si mette in piedi sulle panchine, io ho delle panchinette e dei cavolini. Pezzi, pulite, carine, magari il suo orgoglio sono. Hai delle capire. No, a parte quello, ma insomma cerchiamo sempre di tenere un livello di con le scarpe sporche appoggiate sulla panchina. Bravissimo, e quello al mio primo sguardo, o magari quando si cerca di fare un intervento, molte volte, quest'anno è successo 3 volte, i genitori o mi guardano in cagnesco o non vengono più, o addirittura mi sento rispondere, ma è un bambino, cosa devo fare? Ah, vede, però c'è la conferma, il posseduto è sempre accompagnato da un genitore bimbo minchia. Certo, ah, ecco. La risposta è sempre quella, lei è maleducato, cioè io, che mi fa queste osservazioni, è un bambino, cosa vuole che gli dica, è come cosa vuole che sentiamo, gli dica. Sentiamo Elena, importantissima la sua testimonianza, dal gelataio si capisce molto. Sentiamo Elena, l'ultima ascoltatrice. Elena. Buongiorno. Sì. Allora, io non ho figli, ho 48 anni, i figli degli altri, perché tra l'altro lavoro in un supermercato. No, quindi... si dice io ho figli non pervenuti, così lei fa parte. Io ho figli non pervenuti. Sì, di 100.000 non pervenuti. Esatto. E cosa osserva nei figli degli altri? Qual è il livello di bimbo minchiaggine? Ma direi che siamo sul livello preabbondante. Quindi posseduti e frantumatori. Almeno da quello, dal mio osservatorio all'interno di un ipermercato, sì. Allora, mi dica, nell'ipermercato il posseduto come si comporta? Il posseduto, più che altro, si arrampica, sì, su vetrine, banchi. Certo. Butta giù la merce, fa cadere la merce. Assolutamente. I genitori cosa dicono? I genitori cosa dicono? I genitori o li lasciano, cioè, ridono. Praticamente li lasciano... Sì. Li abbandonano all'interno del supermercato facendo la spesa, sì, velocissimo. Oppure? Oppure l'unica volta che sono intervenuta mi sono sentita minacciare dai genitori. Perfetto, perché... il quadro rientra perfettamente nel nostro indice statistico. Ancora una volta i nostri 15 esperti hanno colto nel segno. Grazie.